my stomach won't stop, stop. And even though it's a struggle, love is all we got. So we gon' keep, keep climbing to the mountaintop. Beh, pensate un po' che dopo 2 anni di supremazia su Twitter, Lady Gaga, ahimè, deve lasciare lo scettro proprio a lui, a Justin Bieber. La pop star canadese ha infatti superato come numero di follower la mamma mostra, diventando così il personaggio più popolare del social network. Merito anche di foto scandalose e fan particolarmente attivi, che hanno, diciamo, scatenato il passaparola per reclutare nuovi adepti digitali. Un testa a testa all'ultimo follower, praticamente, quindi, che hanno incoronato Justin Bieber re di Twitter. Inoltre, negli ultimi mesi, Miss Germanotta, Lady Gaga, appunto, aveva dovuto affrontare anche una amara verità, perché circa il 70% dei suoi follower aveva un profilo falso e non attivo. I Beliebers guidano quindi la classifica di Twitter e sono comunque marcati stretti dagli ammiratori di Lady Gaga, mentre la medaglia di bronzo va agli ammiratori di Katy Perry. Fuori dal podio la lista continua con altre bellezze dello show business. Rihanna conquista il 4º posto con poco meno di 28 milioni di follower, mentre Britney Spears si ferma al 6º posto con appena 23 milioni di fan. Mentre più bassa in classifica anche Shakira con 19 milioni e la prezzemolina Kim Kardashian con 17 milioni. Beh, quindi bravo il nostro Justin Bieber, che è praticamente in vetta alla classifica, quindi anche superato Lady Gaga, che voglio dire, Lady Gaga, che diciamo anche lei, cioè, merita. E noi continuiamo e andiamo avanti. Ti giri indietro e ti ritrovi in un mare di sé, ma io resto con te e ti voglio perché io io con te sto bene, mi dimentico le pene, son felice, non mi pento, tutto qua. E se guardi bene in me, troverai una parte di te. Questi giorni tra noi non li venderei mai. Mi ricordo bene tante favole serene, tante frasi dette con ingenuità. Il mio sangue freme, tu mi scorri nelle vene, io ti voglio, tutto il resto si vedrà. Sì, devi dirmi di sì, non mi scorderò mai quel bisogno d'amore che hai. Devi dirmi di sì, basta crederci un po', riprovandoci forse si può. Devi dirmi di sì, quel che c'è scalderà. Io con te sto bene, mi dimentico le pene, sono felice, non mi pento, tutto qua. Sì, devi dirmi di sì, non mi scorderò mai quel bisogno d'amore che hai. Devi dirmi I thank God I died. appunto Beyoncé ha interpretato l'inno americano in maniera impeccabile alla cerimonia di insediamento di Obama. Però peccato, a quanto pare, che fosse in playback. Eh sì, perché la versione di The Stars Spangled Banner è stata registrata il giorno prima. A rivelare i particolari è il Times di Londra, e la notizia ha fatto appunto subito il giro di tutti i media americani. Una performance che ha emozionato sicuramente il presidente Barack Obama, la moglie Michelle e gli 800.000 accorsi lungo il National Mall di Washington e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Però peccato appunto che non fosse dal vivo. Però a quanto pare la colpa, diciamo tra virgolette, non sarebbe proprio della cantante, ma è stato appunto deciso da parte di tutti gli organizzatori, perché lei era appunto disponibile a cantare dal vivo. Quindi la cantante viene assolutissimamente scagionata, quindi rispettato gli ordini imposti dall'alto. Adesso gli occhi, comunque le orecchie, sono tutti puntati sullo Super Bowl, quando la stella del pop dovrà esibirsi di nuovo, stavolta rigorosamente live, almeno così giustamente sperano gli americani. Eh sì, dai. Sì, sì, questa volta è stata scagionata, mica è stata colpa sua, ma lei canterà sicuramente rigorosamente dal vivo. E adesso passo a salutare una carissima radioascoltatrice, Maria, che come sempre è in viaggio con la sua macchinina, che fa ritorno a casa. Maria, questa è tutta per te. Un bacione grande, ciao! Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. If you want it, I'm gonna be ba-ba-boom.

Fabi, Lontano da me, che fa parte del suo album Ecco, quindi ritorna, quindi nuove sonorità folk e corali, in cui emerge appunto l'entusiasmo di un cantautore che dopo 15 anni di carriera è ancora capace di stupirsi e di arrivare e ripartire. Lontano da me racconta quindi di viaggi fisici e interiori e di quanto sia importante allontanarsi dalla routine, dai luoghi familiari per ritrovarsi e per capirsi profondamente, perché solo appunto la distanza permette di ridimensionare tutte quelle cose che da vicino appaiono enormi. Bene, devo dire un grande artista che ritorna, e da poco è partito il suo turno, è iniziato il nuovo tour di Nicolò che lo vede sui palchi dei migliori teatri italiani fino a marzo 2013. Un tour molto atteso che debutta con date sold out nelle principali città italiane. Quindi un grande risultato per un artista che negli anni ha dimostrato coerenza e fedeltà artistica. E noi siamo contenti per lui, finalmente è ritornato e sempre con belle canzoni, bella musica. Bene, siamo contenti, andiamo avanti. In the blink of an eye, I was falling from the sky. In the blur, you took my breath away. And my heart starts beating, and my lungs start breathing, and the voice in my head starts screaming. Siete con Jerry. Adesso vado ad accontentare un radioascoltatore affezionatissimo, Salvo, con Alex Britti, Oggi sono io. Un bacio, Salvo. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore,

girl, but she's on fire. E con questa bellissima canzone ho accontentato Federica che ce l'ha richiesta. Passo ad accontentare un'altra radioascoltatrice, Chiara, che saluto. Arriva lui, Biagio Antonacci, Insieme Finire. Se ti va, vieni a prendermi nell'hotel che costeggia il sole. E io confino a nord con blu, l'ovest è una parte mia, ho una mano ad est e l'altra a sud. Se mi vuoi, vengo a nascere nella tua testa libera. Io non mendico attenzione, io sarei conquistatore, io vorrei che tu scegliessi me. Vengo a vendermi al tuo onore che difendi ancora. Lacrima mi liberi, lacrima si libera e straripa dalle rughe mie. E se vuoi, sempre se lo vuoi, perché sai, non ti spingo a niente e fai di me la tua virtù. Scegli me tra i tanti, scegli me. Anche Chiara, ciao Chiara, un bacione. E a proposito di Biagio Antonacci, ha da poco chiuso il lungo tour Insieme Finire al Mediolanum Forum di Assago di Milano, ancora una volta con un sold out. Ospiti speciali della serata i Club Dogo e Alessandra Moroso, e con quest'ultima Biagio ha intonato chitarra e voce Il cielo in una stanza, è uno dei suoi brani più intensi, le cose che hai amato di più. Alessandra ha sfoderato una voce più black, frutto degli studi di canto in America, come lei ha ammesso appunto a TG.com, comunque sempre in grande forma. Intanto Antonacci si gode il successo di un tour che ha messo a segno 46 concerti a maggio, ottobre, novembre e dicembre, tutti sold out in oltre 30 città italiane. Il concerto del 22 maggio, quindi, che da poco si è concluso al Mediolanum Forum di Assago, quindi è stato registrato, e nei prossimi mesi sicuramente uscirà un DVD live per tutti coloro, quindi per tutti i fan di Biagio Antonacci che si fossero persi questo concerto, naturalmente. Bene, bene, a me piace Biagio Antonacci, è un grande artista, poi devo dire che Bell'uomo pure, sì, proprio sì. Che ne pensate? A voi piace Biagio Antonacci? Fatemelo sapere, attendo le vostre notizie. Meet you downstairs in the bar and home. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear man down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in a place but I can't get joy. Thinking on you in the final throes. This is CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry fino alle 17 circa. Adesso vado ad accontentare un'altra cara amica, Patrizia, con Alessandra Moroso. Ciao, ciao Patrizia, fatti sentire. Ti ho detto delle cose che non avrei voluto dire. E a farti così male, mi sono fatta male. Ho spinto l'acceleratore, il tempo di una sigaretta, mi si è bruciato tutto quanto. È più facile incolparsi che trovare una soluzione, la giusta mediazione. ogni mano e chi invece non crede per niente diventa indifferente. Che può sembrare strano, io che ritorno come niente e ti pretendo in un istante. Ciao, sono io. No, it's just me. and my dreams. It ain't much, but that is still see now. Oh, oh, oh. E sono con voi, sempre con voi. Vado ad accontentare un altro ascoltatore, Gaetano. Ciao Gaetano, un bacione grande, ci ascolta sempre, lo so, un bacio. Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. Rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera andrebbe bene anche così. E non servirà più a niente la felicità, più niente anche la fantasia. E contenterò del tempo andato, soffierà nel vento una lacrima che tornerà da te per dirti ciao, ciao. Mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità. Ciao. E guardami affrontare questa vita come fossi ancora qui. Magari un giorno l'universo accoglierà la mia richiesta e ci riporterà vicini. Tra l'aldilà e il mio nido di città c'è molta differenza, anche se provo a non vederla. E giro il mondo e chiamerò il tuo nome per millenni e ti rivelerai quando non lo vorrò più. Non adesso qui su questo letto, in cui tragico mi accorgo che il tuo odore sta svanendo lento. Soffierà nel vento una lacrima che tornerà da te per dirti ciao, ciao. Mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità. Ciao. E guarda con orgoglio chi sostiene anche le guerre che non può. E senza pace dentro al petto, so che non posso fare tutto, ma se tornassi farei tutto e basta. E guardo fisso quella porta, perché se entrassi un'altra volta vorrebbe dire che anche io sono morto già. Tutto l'universo e tu stai lì. La vita come tu te la ricordi. E questo era per Gaetano. Ciao Gaetano, per dirti ciao, ciao, ciao. Allora intanto vi ricordo di nuovo i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste: il 335-56-37251 e ancora lo 0921-92-3292. Vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming al nostro sito, che è il www.crmhappyradio.it, o ancora sul nostro portale Facebook. Adesso parliamo di felicità. Sì, voi sapete qual è il segreto della felicità? Beh, ve lo dico io. Sta praticamente nel continuare a desiderare qualcosa più che nell'ottenerlo. Quando si aspira intensamente ad ottenere qualcosa, l'aspettativa ci carica di un ottimismo e di energia positiva nell'attesa di raggiungere l'obiettivo. Quando invece poi otteniamo l'oggetto o il risultato delle nostre brame, beh, il piacere cala inesorabilmente, mentre la felicità e l'allegria che ci hanno sostenuti nell'attesa si smorza irreparabilmente. Insomma, desiderare intensamente qualcosa è molto meglio che averla. Tutto questo è dimostrato scientificamente da una ricerca appunto dell'Università del Missouri. Gli esperti appunto sono partiti dalla teoria secondo la quale la ricerca spasmodica della felicità è in realtà il maggior ostacolo che ci impedisce di essere davvero felici, e ha cercato di dimostrare la verità questa convinzione applicandola alle attuali situazioni di materialismo e consumismo della società odierna. L'esperta poi inoltre ha coinvolto un gruppo di persone e ha misurato il loro livello individuale di materialismo, quindi ha analizzato i loro stati d'animo prima e dopo, per esempio, una spesa per l'acquisto di un oggetto dei propri desideri. Ed è emerso che, qualsiasi fosse l'acquisto in questione, gli stati d'animo che precedevano l'acquisto erano sempre di festosa aspettativa, di ottimismo e di convinzione che l'acquisto tanto agognato avrebbe cambiato sensibilmente e meglio la vita. Insomma, prima di concedersi l'oggetto del desiderio, i volontari erano felici. Purtroppo, però, questi sentimenti venivano meno praticamente subito dopo aver fatto l'acquisto. Da qui la conclusione che, almeno per quanto riguarda il possesso dei beni materiali, la felicità è nell'attesa e nelle aspettative legate a un desiderio e non alla sua realizzazione. Avete capito? Quindi desiderare una cosa ci rende ancora più felici che poi alla fine nell'ottenerlo, secondo questo studio, insomma, dell'Università del Missouri. Voi cosa ne pensate? Cosa dite? Secondo voi può essere vera? Bah, non lo so. Certo, puoi ottenere la cosa desiderata, secondo me è pure meglio. Però secondo questo studio dice il contrario. Non saprei. Come on, Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders, and as he passes by, they all sigh. Yeah.

stronze da morire, tutti in fila a supplicare un sì. E tutto gira intorno a questo sole, ci basta poco per ucciderti. Ci puoi stirare ed ammirare, ma guardare non toccare, che siamo sempre noi a dire sì. Ci puoi stirare. Ci lasciamo anche fregare, che certe volte ci facciamo anche del male. E brave ragazze, certe volte siamo facili all'amore, ma siamo sempre noi a dire sì. Noi brave ragazze, certe volte siamo facili all'amore, ma siamo sempre noi a dire sì. Sono sempre con voi, siete con Jerry sino alle 17, ancora un po' di tempo da trascorrere insieme. Parliamo a proposito di ragazzi, no? E di ragazze, sembra appunto crescere un po' la dipendenza da web appunto negli adolescenti, e navigare può diventare una patologia, e diciamo già nella preadolescenza si è già intrappolati nella rete. La dipendenza dal web cresce appunto, dicevo, tra gli studenti dagli 11 ai 16 anni. Sarebbero 240.000, secondo le ultime stime, i ragazzini e adolescenti italiani che passano mediamente più di 3 ore al giorno davanti al PC. Sono sempre più diffusi disturbi gravi come la sindrome di Hikikomori, una sorta di isolamento sociale, prima presente solo in Giappone. A segnalare il fenomeno è la Federazione Italiana degli Ordini dei Medici. Una patologia, quindi, la sindrome di Hikikomori è una dipendenza che riguarda diversi adolescenti e si traduce in un isolamento sociale caratterizzato dalla costante presenza sul computer dall'uscita di scuola fino a tarda notte. Presente in Giappone dalla seconda metà degli anni 80, dagli anni 2000 la patologia si è diffusa anche negli Stati Uniti e poi anche in Europa. Questi bambini e adolescenti quindi frequentano la scuola con un profitto sufficiente e poi vengono completamente assorbiti quindi dalla realtà parallela. Il loro unico amico è il computer, infatti trascorrono dalle 10 alle 12 ore quotidianamente in questa dimensione. Questi adolescenti, praticamente la FOMCEO rivela appunto che le istituzioni italiane non sembrano preoccuparsi, ed è un limite evidente, già che la realtà sociale è fatta anche e soprattutto di queste problematiche, con un'espansione clinica che valutiamo quotidianamente. Questi adolescenti non sono autistici né soffrono di fobia scolare, secondo i medici, e più delle volte riescono a raggiungere la sufficienza nelle materie scolastiche, confermando che frequentano l'ambiente didattico come una sorta di obbligo, e poi si ritirano dal mondo reale per calarsi completamente in quello virtuale. Rifiutano le attività ludiche e trasferiscono quindi tutto in un contenitore virtuale che assorbe la loro vita. La FNOMCEO conclude che una delle forme emergenti di dipendenza, che spesso viene confusa con situazioni psicopatologiche diverse, va affrontata e prevenuta innanzitutto attraverso la coscienza del fenomeno, che è ancora sottotaciuto. Quindi certo, stare troppe ore al computer, voglio dire, fa male già a quell'età lì, stare ore e ore davanti al computer, a stare lì a giocare, a chattare, non va bene. Poi giustamente a scuola non rendono, quindi mi raccomando, dedicate meno ore, uscite fuori, studiate, uscite fuori, divertitevi, e evitate di stare ore e ore e ore davanti a un PC che comunque, cioè, assorbe troppo del vostro tempo. E noi continuiamo, sono le 16.45, ancora un quarto d'ora da trascorrere insieme a Jerry, naturalmente sempre alla bella musica di CRM Happy Radio. I get tired and upset, and I'm trying to care a little less. When I'm too cool, I only get depressed. I was taught to dodge those issues, I was told, don't worry. Always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say. I don't care what the people may say about me. Crack up your troubles, get your own

tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with the leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. Questa era l'ultima canzone in programma per oggi all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia. Io vi do l'appuntamento naturalmente venerdì, sempre a partire dalle 15 circa, sì, bene o male, se non arrivo in ritardo come al solito. E adesso vi lascio a CRM P Talent con Santi Genovese, naturalmente tutti i suoi ospiti, e vi ricordo che inoltre avrà anche al telefono il Gianni Contino, il patron del Cantamare, quindi grandi grandi ospiti all'interno di CRM P Talent. Non perdete questo appuntamento subito dopo Jerry, che adesso praticamente mi stanno andando via. C'è Simone che proprio mi fa i gestacci, vai via. Vabbè, sto andando, Simone, calmati, adesso vado. Vedo l'appuntamento, ecco, mi ha pure aperto la web. Saluto Santi, ciao Santi. Vi ricordo allora buon proseguimento, buona me ne devo andare, l'ho capito Santi, sto andando via. Ci vediamo venerdì, un bacione a tutti, ciao ciao, alla prossima. Semplicemente. Semplicemente. Semplicemente.